Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale. brano che abbiamo eseguito avete conosciuto tutti, Nino Rota, La dolce vita, è quella che speriamo tutti di conoscere, nel mare. E adesso passiamo a un super classico, uno slow bellissimo, che si intitola Smoke Gets in Your Eyes. Thank you. molto lunga, ha iniziato molto presto Duke Ellington. Questo brano è un brano che ha un sapore molto blues, è sentito da Zeb Mauch, introdurrà al pianoforte il maestro Altarocca. Thank you. Thank you. Thank you. chitarrista di Ellington, anche se è una composizione di Quantis Hall, trombonista, e il titolo è Perdido. Stiamo sempre sui classici, non si sbaglia mai. Thank you. Facciamo un altro clap, tanto me ci avete capito, facciamo solo classici. No, questo va bene. Quasi solo classici, questo poi non ne parliamo proprio, non vi sto neanche dire come si intitola. Maestro. Thank you. Thank you. Grandissimo maestro di clarinetto, veramente numero uno, e, che ci ha lasciato pochi anni fa. Quest'altro brano, Brother Can Sparadigm, è un brano che eseguiva spesso Tony Scott, altro grandissimo maestro del clarinetto italo-americano. Anche lui ci ha lasciato l'anno scorso, aveva 94 anni, ha suonato fino all'ultimo giorno. Non so se conoscete Tony Scott, vale la pena, se vi capita, andare a cercare qualcosa di suo. Quindi, fatti doverosi omaggi ai miei idoli ebanitici, e passerei a un altro grande della musica italiana, vero? Noi amiamo fare le pezze, ci piacciono tantissimo. Partiamo quello che partiamo insieme a te, con i 12 ottavi. Dai, qua. Thank you. perché il mare sta questa notte senza te, dovrò restare folle d'amore, c'è chi la sa, vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Thank you.

Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale.